Signor Lennox, vi sono molto grata per tutto quello che avete fatto per Frederick. Mi dispiace soltanto che non sia andato a buon fine, rispose lui con una rapida occhiata verso il signor Bell, come per sondare quanto avrebbe potuto dire davanti a lui. Margaret, come se egli avesse letto nel pensiero, si rivolse al signor Bell sia per includerlo nella conversazione che per lasciare intendere che era perfettamente a conoscenza dei tentativi fatti per discolpare Frederick. Quel Horrocks, proprio l'ultimo di tutti i testimoni, si è dimostrato inutile come gli altri. Il signor Lennox ha scoperto che ha salpato per l'Australia appena l'agosto scorso, soltanto 2 mesi prima che Frederick venisse in Inghilterra e ci desse i nomi di... Frederick in Inghilterra? Non me l'avevi mai detto! Esclamò sorpreso Bell. Pensavo che ne foste al corrente, ero certa che ve l'avessero detto. Naturalmente era un segreto e forse non avrei dovuto menzionarlo ora, disse Margaret con lieve sgomento. Non ne ho mai fatto parola né con mio fratello né con vostra cugina, disse il signor Lennox con un tono leggermente distaccato e professionale, come a volerla tacitamente rimproverare. Non preoccuparti, Margaret, non vivo in un mondo che bada a troppe ciance o chiacchiere, né tra gente che cerca di estorcermi informazioni. Non devi fare quella faccia spaventata soltanto perché ti sei lasciata sfuggire un segreto con un vecchio affidabile eremita come me. Non dirò mai a nessuno che è stato in Inghilterra e non sarò tentato a farlo perché nessuno me lo chiederà. Aspetta, interrompendosi improvvisamente, era qui per il funerale di tua madre? Era con la mamma quando è morta, rispose Margaret con voce sommessa. Ma certo, diamine, qualcuno mi ha domandato se non fosse stato qui quella volta e io ho negato con decisione. Non tante settimane fa. Chi può essere stato? Ah sì, mi ricordo, ma non disse il nome. E anche se Margaret avrebbe dato qualunque cosa per avere conferma dei suoi sospetti, cioè che fosse stato il signor Thornton a chiedere quell'informazione, non riuscì a porre la domanda al signor Bell, per quanto ardentemente lo desiderasse. Ci fu una breve pausa, dopodiché il signor Lennox disse, rivolgendosi a Margaret: E suppongo, dal momento che il signor Bell è al corrente di tutte le circostanze che riguardano lo sventurato caso di vostro fratello, di non poter fare di meglio che informarlo esattamente sullo stato attuale della ricerca delle prove che all'epoca avevamo sperato di fornire in suo favore. Dunque, se vorrà onorarmi della sua presenza a colazione domani, esamineremo i nomi di queste persone mancanti. Mi piacerebbe sentire i dettagli, se posso. Non potete venire qui? Non mi permetto di invitarvi entrambi a colazione, anche se sono sicura che sareste i benvenuti, ma informatemi su tutto quello che c'è da sapere di Frederick, anche se non ci possono essere speranze al momento. Ho un impegno alle 11:30, ma verrò di certo se lo desiderate, rispose il signor Lennox con un piccolo ripensamento su quella sua totale disponibilità, che portò Margaret a chiudersi in se stessa e quasi a desiderare di non aver mai fatto quella proposta tanto spontanea. Il signor Bell si alzò e si guardò attorno alla ricerca del cappello che era stato spostato per fare spazio al tè. Bene, disse, non so che intenzioni abbia il signor Lennox, ma io sono propenso ad avviarmi verso casa. Oggi ho viaggiato e i miei 60 passani iniziano a farsi sentire. Credo che mi tratterrò per vedere mio fratello e mia cognata, disse il signor Lennox senza accennare ad andarsene. Margaret fu sopraffatta dall'imbarazzante timore di essere lasciata da sola con lui. La scena sulla stradina nel giardino di Helston era ancora così vivida in lei che non riusciva a credere che non fosse così per entrambi. Oh, restate ancora un po', vi prego, signor Bell, disse frettolosamente. Desidero che vediate Edith e voglio che Edith vi conosca, per favore, disse, posando dolcemente ma con determinazione la mano sul suo braccio. Lui la guardò e vide la sua espressione smarrita e agitata. Si mise di nuovo a sedere, come se il suo tocco delicato fosse stato posseduto da una forza alla quale non poteva opporsi. Vedete che potere ha su di me, signor Lennox, disse. Spero abbiate notato la scelta azzeccata delle sue parole. Vuole che io veda questa cugina Edith che mi dicono sia una gran bellezza, ma ha avuto l'onestà di cambiare il termine quando è arrivata a me. La signora Lennox deve conoscermi. Suppongo di non essere un uomo da vedere, eh, Margaret? Scherzò per darle il tempo di riprendersi da quella leggera agitazione che aveva avvertito alla possibilità che lui se ne andasse e lei colse il tono e rilanciò la palla. Il signor Lennox si chiedeva come suo fratello, il capitano Lennox, potesse avergli parlato di Margaret dicendo che aveva perso tutta la sua bellezza. Di certo, con quel sobrio vestito nero era molto diversa da Edith, che danzava nel suo abito da lutto di crepe bianco, con i lunghi e fluttuanti capelli dorati, lucidi e setosi. La signora Lennox arrossì, piena di fossette sulle guance, in modo alquanto grazioso quando fu presentata a Belle, consapevole di avere la reputazione di bella donna da difendere e che non andasse bene avere un mardocheo che si rifiutava di adorarla e ammirarla, anche se aveva le fattezze di un vecchio professore universitario di cui nessuno aveva sentito parlare. La signora Shaw e il capitano Lennox, ognuno a suo modo, diedero al signor Bell un cordiale e sentito benvenuto, conquistandosene la simpatia quasi suo malgrado, soprattutto quando vide la naturalezza con cui Margaret aveva preso il suo posto di sorella e figlia nella casa. Che peccato che non fossimo a casa a ricevervi, disse Edith. Anche voi, Harry, anche se non sapevo che saremmo dovuti restare a casa per voi e per il signor Bell, per il signor Bell di Margaret. Chissà quali sacrifici non avreste fatto, disse suo cognato. Avreste rinunciato persino a una festa e al piacere di indossare un abito tanto grazioso. Edith non sapeva se accigliarsi o sorridere, ma al signor Lennox non conveniva spingerla verso la prima di queste due alternative. Così continuò: mostrerete la vostra disponibilità a fare sacrifici domani mattina, come prima cosa invitandomi a colazione per incontrare il signor Bell, e seconda cosa facendola preparare per le 9:30 invece che per le 10. Ho delle lettere e alcuni documenti che vorrei mostrare alla signorina Hale e al signor Bell. Oh, spero che il signor Bell si consideri a casa qui da noi durante il suo soggiorno a Londra, disse il capitano Lennox. Mi dispiace solo che non possiamo offrirgli una camera. Grazie, vi sono molto riconoscente. Pensereste che sia solo uno zoticone se l'aveste fatto, perché avrei rifiutato, credo, nonostante la forte tentazione di una compagnia così piacevole, disse Bell, facendo inchini a tutti e segretamente congratulandosi con se stesso per l'elegante piega che aveva dato alla sua frase che, se trasposta in un linguaggio diretto, sarebbe risultata più o meno così: non riuscirei a sopportare la vicinanza di una cricca di individui che si comporta in modo così decoroso e parla in modo così educato come questa. Sarebbe come mangiare la carne senza sale. Sono contento che non abbiano un letto e come ho rivoltato bene la mia frase. Sto assolutamente imparando il segreto delle buone maniere. Il suo autocompiacimento durò fino a quando non fu fuori per le strade, camminando a fianco di Henry Lennox. Improvvisamente si ricordò di quel leggero sguardo di supplica che lo aveva spinto a trattenersi più a lungo e si ricordò anche che un amico del signor Lennox aveva fatto delle allusioni alla sua ammirazione per Margaret. E i suoi pensieri presero una nuova piega. Conoscete la signorina Hale da molto tempo, suppongo. Come la trovate? Mi sembra pallida e malata. Oh, io ho pensato che avesse un aspetto magnifico, forse non appena sono entrato, adesso che ci penso, ma certamente quando ha cominciato ad animarsi mi pareva avesse lo stesso bell'aspetto di sempre. Ne ha passate tante, disse il signor Bell. Sì, mi è dispiaciuto sentire tutto quello che ha dovuto sopportare, non soltanto il dolore naturale dovuto ai lutti, ma tutti i disagi che il comportamento del padre deve averle causato, e poi il comportamento di suo padre. Disse il signor Bell con un'inflessione di sorpresa. Dovete aver sentito qualche dichiarazione sbagliata. Si è comportato nel modo più coscienzioso possibile. Ha dimostrato una ferrea determinazione, molto più di quella che in passato mai avrei pensato potesse avere. Oh, beh, forse sono stato male informato, ma mi è stato detto dal suo successore nella parrocchia, un uomo intelligente e giudizioso e un reverendo assolutamente attivo, che non era affatto richiesto al signor Hale di fare quello che ha fatto, di lasciare la parrocchia e consegnare se stesso e la sua famiglia alla clemenza dell'insegnamento privato in una città industriale. Il vescovo gli aveva offerto un'altra parrocchia, è vero, ma se era arrivato a considerare certi dubbi, poteva rimanere dov'era, non aveva motivo di dare le dimissioni. Ma la verità è che questi parroci di campagna vivono vite così isolate, isolate voglio dire, da ogni contatto con uomini del loro stesso livello culturale, con cui potrebbero confrontare i propri pensieri e capire quando stanno correndo troppo o troppo poco, che sono molto portati ad avere crisi per dei dubbi teologici aleatori e buttano via l'opportunità di fare del bene per fantasie estremamente vaghe. Non sono d'accordo con voi. Non penso che siano molto portati a fare quello che ha fatto il mio povero amico Hale. Dentro di sé il signor Bell iniziava a irritarsi. Oh, forse ho usato un'espressione troppo generica dicendo molto portati, ma certamente le loro vite sono tali da portare spesso o alla presunzione sfrenata o a uno stato di coscienza malato, rispose il signor Lennox con assoluta freddezza. L'arroganza tra gli avvocati non la incontrate mai, invece? Chiese il signor Bell. E di rado immagino casi di coscienza deviata. Era sempre più stizzito e si stava dimenticando del trucco delle buone maniere che aveva imparato di recente. Il signor Lennox si accorse di aver infastidito il suo compagno e dal momento che aveva parlato tanto per fare conversazione e per passare il tempo, finché le loro strade non si fossero divise, gli era alquanto indifferente da quale parte stare in quella questione, così cambiò tranquillamente opinione dicendo: «Boh, di sicuro c'è qualcosa di buono in un uomo dell'età del signor Hale che lascia la casa in cui ha vissuto per 20 anni, rinuncia a tutte le sue consolidate abitudini per un'idea che era probabilmente sbagliata». Incomprensibile, ma questo non è importante. Non si può che ammirarlo con una certa pietà mescolata a una certa ammirazione, una cosa simile a quella che si prova per Don Chisciotte. Come lui, un tale gentiluomo, non dimenticherò mai l'ospitalità premurosa e semplice che mi ha riservato quest'ultimo giorno, quell'ultimo giorno a Helston. Rabbonitosi solo per metà e ancora agitato per placare i dubbi della sua coscienza, che stentava a credere che il comportamento di Hale avesse una sfumatura di donchisciottismo, Bell ringhiò: «Già, e non conoscete Milton? Un tale cambiamento da Helston. Sono anni che non vado a Helston, ma giurerei che resiste ancora lì ogni arbusto e ogni sasso uguale a com'era un secolo fa, mentre Milton, ci vado ogni 4 o 5 anni e sono nato lì, eppure vi assicuro, mi perdo spesso. Sì, tra tutti quegli agglomerati di magazzini che sono stati costruiti sopra il frutteto di mio padre. Beh, ci separiamo qui. Buonanotte, signore. Immagino che ci vedremo a Harley Street domani mattina». 45. Non è tutto un sogno. La conversazione con il signor Lennox suggerì alla mente sempre sveglia di Bell l'idea di Helston, ed essa per tutta la notte creò scompiglio nei suoi sogni. Era di nuovo un tutore nell'università in cui ora aveva la carica di professore. Era il periodo delle vacanze e abitava con il suo amico che si era appena sposato, il fiero marito e felice reverendo di Helston. Sopra gorgoglianti ruscelli spiccavano salti incredibili che parevano tenerli per giorni interi sospesi in aria. Se tutte le cose sembravano reali, il tempo e lo spazio no. Ogni evento veniva valutato dalle emozioni della mente, non dalla sua reale esistenza, poiché di esistenza non ne aveva. Tuttavia gli alberi erano splendidi, senza foglie, perdute con l'arrivo dell'autunno. L'intenso profumo dei fiori e dell'erba aromatica arrivava soave ai sensi. La giovane moglie si muoveva per casa con quella giusta mescolanza di fastidio per la propria condizione di salute e di orgoglio per il suo affascinante e devoto marito, che Bell aveva osservato nella vita reale un quarto di secolo prima. Il sogno sembrava così vero che quando si svegliò era la vita a sembrargli un sogno in quel momento. Dove si trovava? Nella claustrofobica stanza finemente arredata di un albergo di Londra. Dove erano quelle persone che fino a un attimo prima gli parlavano, gli si muovevano intorno, lo toccavano, morti, sepolti, persi per l'eternità, fin quando sarebbe durata l'eternità della terra? Era un uomo vecchio, fino a poco tempo prima così esultante in tutta la sua virile energia. Il pensiero della totale solitudine della sua vita gli era insopportabile. Si alzò rapidamente e cercò di dimenticare quello che ormai non poteva più essere, vestendosi in fretta per la colazione a Harley Street. Non riusciva a prestare attenzione a tutti i particolari spiegati dall'avvocato, all'ascolto dei quali, come vedeva, gli occhi di Margaret si dilatavano e le sue labbra diventavano pallide, poiché per ognuno di essi il fato sembrava stabilire che ogni briciolo di prova che avrebbe potuto discolpare Frederick le sarebbe sprofondato sotto i piedi, scomparendo. Persino il tono professionale e ben calibrato della voce del signor Lennox si fece più tenero e delicato, mentre si apprestava a estinguere anche l'ultima speranza. Non che Margaret prima non fosse perfettamente consapevole del risultato, solo che i particolari di quella serie ininterrotta di delusioni venivano detti con tale inflessibile meticolosità per spegnere ogni speranza che lei alla fine non riuscì proprio a trattenere le lacrime. Il signor Lennox smise di leggere, È meglio se non continuo, disse con voce turbata. È stata una stupida proposta la mia. Il sottotenente Hale. Eppure questo dargli il titolo del servizio dal quale era stato duramente espulso tranquillizzava Margaret. Il sottotenente Hale è felice adesso. Il suo patrimonio e le sue prospettive future sono più sicure di come avrebbero potuto essere se fosse rimasto nella marina. Inoltre, ha senza dubbio adottato il paese di sua moglie come proprio. È così, disse Margaret. Sono così egoista a dispiacermi. E cercando di sorridere, eppure l'ho perduto e sono così sola. Il signor Lennox ripose le sue carte, desiderando essere ricco e prosperoso come credeva che sarebbe stato un giorno. Il signor Bell si soffiò il naso, ma a parte ciò restò in silenzio. E Margaret, nel giro di qualche minuto, aveva riacquistato la sua solita padronanza di sé. Ringraziò molto cortesemente il signor Lennox per il suo disturbo, con ancora più cortesia e gentilezza, poiché era consapevole che con il suo comportamento magari poteva immaginare di averle causato un inutile dolore, eppure era un dolore di cui non avrebbe potuto fare a meno. Il signor Bell si fece avanti per salutarla. Margaret, disse mentre armeggiava con i suoi guanti, andrò giù a Helston domani per dare un'occhiata a quel vecchio posto. Ti piacerebbe venire con me o ti farebbe soffrire troppo? Puoi dirmelo, non avere paura. Oh, signor Bell, disse, e non riuscì ad aggiungere altro, ma afferrò la sua mano artritica e la baciò. Su, su, basta così, disse arrossendo per l'imbarazzo lui. Suppongo che tua zia si fidi a lasciarti venire con me. Partiremo domani mattina e arriveremo lì all'incirca alle 2, immagino. Faremo uno spuntino e prenoteremo per cena alla vecchia locanda. Leonard Arms si chiamava. E poi andremo a camminare nella foresta per farci venire appetito. Pensi di farcela, Margaret? Sarà una dura prova, lo so, per entrambi, ma sarà un piacere almeno per me. E ceneremo lì. Mangeremo solo carne di cervo se riusciamo a trovarla e poi mi farò un riposino mentre vai a visitare i vecchi amici. Ti riconsegnerò sana e salva, incidenti ferroviari esclusi, e prima di partire ti farò un'assicurazione sulla vita di 1.000 sterline, che potrebbe essere un bel conforto per i tuoi parenti, ma a parte questo, ti riporterò da zia Shaw venerdì per l'ora di pranzo. Perciò, se accetti, vado subito di sopra a proporglielo. Oh, non serve che tenti di esprimere quanto mi piacerebbe, disse Margaret tra le lacrime. Bene, allora dimostrami la tua gratitudine smettendo di piangere come una fontana per i prossimi 2 giorni. Se non lo farai, mi preoccuperei per i tuoi condotti lacrimali e non mi piace l'idea. Oh, non verserò una lacrima, disse Margaret sbattendo gli occhi per far cadere le lacrime dalle ciglia e sforzarsi di sorridere. Questa è la mia brava ragazza. Andiamo a sistemare tutto. Margaret non stava nella pelle mentre il signor Bell discuteva il piano con sua zia, che all'inizio fu sorpresa, poi dubbiosa e perplessa, e alla fine accondiscendente, più per la dura forza delle parole di Bell che per sua personale convinzione. Infatti, riguardo a questa, che fosse giusto, sbagliato, decoroso o indecoroso, non riuscì a trovare una soluzione soddisfacente fino a quando il ritorno indenne di Margaret, la felice realizzazione del progetto, le diede abbastanza decisione per dire che certo era stato un pensiero premuroso da parte del signor Bell, e proprio ciò che lei stessa aveva sperato per Margaret, per darle il giusto diversivo di cui aveva bisogno dopo quel lungo periodo di preoccupazioni che aveva passato. 46. Passato e presente. Margaret era pronta molto prima dell'ora prestabilita ed ebbe tempo per piangere un po', sommessamente, quando nessuno la osservava, e di mostrare luminosi sorrisi in presenza di altri. L'ultima preoccupazione che le era rimasta era il timore di arrivare troppo tardi e perdere il treno. Invece, no, era perfettamente in orario. E lei tirò un lungo respiro, liberamente, con una certa gioia, seduta nel vagone di fronte al signor Bell. Mentre sfrecciavano davanti alle stazioni familiari osservando le antiche città e i paesetti di campagna del sud che riposavano sotto la calda luce di un sole incontaminato che conferiva alle tegole delle case un colore ancora più rosso, così diverso dal freddo grigio di quelle di Ardesia del nord. Nidiate di piccioni si libravano in volo attorno a quei pittoreschi tetti a punta, sistemandosi lentamente qua e là e drizzando le loro soffici e fulgide piume, come per esporre ogni fibra alla deliziosa calura. C'erano poche persone in giro, nelle stazioni, e quasi sembrava che fossero troppo paghe del loro ozio per avere il desiderio di viaggiare. Nulla della confusione e del trambusto che Margaret aveva notato nei suoi due viaggi sulla linea che collega Londra al nord-ovest. Verso la fine dell'anno, quella linea ferroviaria sarebbe stata movimentata e ravvivata da turisti facoltosi. Tuttavia, quanto al continuo viavai di affaccendati mercanti, sarebbe sempre stato completamente diverso dalle linee del nord. Qui due o tre spettatori stavano in piedi a oziare quasi in ogni stazione, con le mani in tasca, così assorti nel semplice gesto di osservare che i viaggiatori si chiedevano che cosa si trovassero da fare dopo che il treno era sfrecciato via. E restava loro da guardare soltanto lo spazio vuoto di una ferrovia, qualche rimessa e uno o due campi in lontananza. L'aria calda ondeggiava sopra la quiete dorata della campagna. Si lasciavano alle spalle una fattoria dopo l'altra, e ognuna ricordava Margaret gli idilli tedeschi di Arminio e Dorotea, di Goethe. Da quel sogno a occhi aperti venne ridestata. Era il posto in cui dovevano lasciare il treno e prendere una carrozza per Helston, e ora emozioni più intense colpivano il suo cuore. Se fosse dolore o piacere, non sapeva dirlo. Ogni miglio le rievocava ricordi che per nulla al mondo si sarebbe persa, ma ciascuno di essi le faceva rimpiangere i bei giorni andati con inesprimibile nostalgia. L'ultima volta che era passata lungo quella strada era quando l'aveva lasciata con il padre e la madre. Il giorno, la stagione, erano stati cupi e lei stessa disperata, ma loro erano lì con lei. Ora era da sola, un'orfana, e loro, inspiegabilmente, l'avevano lasciata, scomparendo dalla faccia della terra. La addolorava vedere la strada per Helston così inondata dalla luce del sole, né ogni curva e ogni albero che ben conosceva, così esattamente identici nel loro splendore estivo a come erano stati in passato. La natura non avvertiva i cambiamenti e rimaneva sempre giovane. Il signor Bell intuiva quello che le sarebbe passato per la mente e in modo saggio e gentile tenne a freno la lingua. Arrivarono fino alla Leonard Arms, per metà una fattoria, per metà una locanda, che si ergeva un po' lontano dalla strada, tanto da poter dire che l'oste non dipendeva dalla clientela dei viaggiatori, così da doverla adescare con modi inopportuni. Erano loro piuttosto a doverlo cercare. La casa si affacciava sul verde del paese e proprio davanti si ergeva un antichissimo tiglio con tante panchine attorno. In qualche angolo nascosto della sua chioma ricca di foglie era appeso l'orribile stemma dei Leonards. La porta della locanda era spalancata, ma nessuno si affrettava ad accogliere i viaggiatori. Quando la proprietaria arrivò, e avrebbero potuto rubare più di un oggetto nel frattempo, diede loro un cordiale benvenuto, quasi come se fossero stati degli invitati, e si scusò per aver tardato tanto, dicendo che era il periodo del fieno, che bisognava mandare i viveri per i braccianti nel campo e che lei era stata troppo occupata a preparare i cestini per sentire il rumore delle ruote, che da quando avevano lasciato la strada principale avevano corso sopra un soffice manto erboso. «Oh mio Dio!» esclamò, poiché, come ebbe finito di scusarsi, un luccicante raggio di sole le mostrò il viso di Margaret, fino a quel momento rimasto inosservato nel buio salotto. «Ma è la signorina Hale! Jenny!» disse, correndo verso la porta e chiamando sua figlia. «Vieni qui, vieni subito! È la signorina Hale!» Dopodiché andò da Margaret e le strinse le mani con tenerezza materna. «E come state tutti? Come stanno il reverendo e la signorina Dixon? E soprattutto il reverendo, che Dio lo benedica, non abbiamo mai smesso di dispiacerci per la sua partenza». Margaret tentò di parlare, di raccontare della morte di suo padre. Di quella di sua madre era evidente che la signora Perkis fosse al corrente, dato che non l'aveva menzionata, ma in quel tentativo rimase senza fiato e riuscì soltanto ad accennare al suo stretto lutto pronunciando l'unica parola: papà. «Certamente, signore, non può essere vero», disse la signora Perkis, girandosi verso Bell per la conferma del triste sospetto che le si era insinuato nella mente. «È stato qui un signore in primavera, o forse non più tardi dello scorso inverno, che ci ha raccontato un sacco di cose sul signor Hale e la signorina Margaret, e ci ha riferito che la signora Hale era morta, povera donna, ma neanche una parola sul fatto che il reverendo fosse malato». «Eppure è così», disse il signor Bell. È morto improvvisamente quando è venuto a trovarmi a Oxford. Era un uomo buono, signora Perkis, e molti di noi potrebbero essere grati di fare una morte tranquilla come la sua. Vieni, Margaret cara. Suo padre era il mio più caro amico e lei è la mia figlioccia. Quindi ho pensato di venire qua giù insieme a rivedere i luoghi di una volta e so da tempo remoto che voi ci potete offrire camere confortevoli e un'ottima cena. Non vi ricordate di me, vedo, ma mi chiamo Belle e un paio di volte quando nella canonica non c'era posto ho dormito qui e ho assaggiato la vostra buona birra. Oh, certo, certo che mi ricordo. Vi chiedo perdono, ma comprenderete che ero tutta presa dalla signorina Hale. Permettetemi di accompagnarvi in camera, signorina Margaret. Dovete poi togliervi il cappellino e rinfrescarvi il viso. Proprio questa mattina ho infilato alcune rose appena raccolte nella caraffa dell'acqua, perché ho pensato, magari verrà qualcuno e non c'è niente di così piacevole come l'acqua di sorgente profumata da un paio di rose moscate. Oh, se penso che il reverendo è morto, beh, di sicuro morire dobbiamo tutti, è solo che quel signore raccontò che si stava appena riprendendo dal dolore per la morte della signora Hale. Venite giù da me, signora Perkis, dopo esservi occupata della signorina Hale. Vorrei consultarmi con voi riguardo alla cena.